I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte e ciao a tutti. Uno dei ritornelli che ci accompagna da diversi anni ormai è quello della cosiddetta convivenza civile, oppure della democraticità del confronto, oppure della capacità di gestione dei conflitti. Queste categorie appaiono costantemente in ogni situazione e in ogni momento del sociale, tanto per capirci nella scuola, nel lavoro, nel fare politico. E di primo acchito potrebbero apparire utili, innocue e comunque indirizzate a un miglioramento dei rapporti sociali. In realtà non sono questo, ma rappresentano uno strumento molto forte di controllo sociale, uno strumento che mira a infilarsi in ogni più piccolo rapporto umano ed interpersonale ed è una diretta emanazione dell'ideologia neoliberista che in effetti è metabolismo sociale. Allora, l'ideologia neoliberista, che non è altro che la forma attuale compiuta del divenire del capitale, ha una pretesa che è quella di vietare ogni forma di conflitto e di declinare tutto nel suo interesse e di sacrificare tutto alla sua conservazione e autoespansione. Ha la pretesa di far dimenticare completamente la differenza tra aggredito e aggressore, tra sfruttato e sfruttatore. La subalternità delle donne sarebbe così un problema di incapacità di rapportarsi tra i sessi, cioè la famosa convivenza tra i sessi. È vero che viene propagandata anche la strutturale impostazione dell'oppressione delle donne, però poi la risposta è sempre culturale, cioè al di là di questa dichiarazione di principio, la risposta è sempre culturale. Bisogna capire, bisogna analizzare, bisogna rapportarsi, bisogna studiare, bisogna curare, no? E anche i popoli del terzo mondo in questo contesto, in questo modo in cui viene declinato il sociale e in cui viene declinato il politico, sia sul fronte interno che sul fronte esterno, i popoli del terzo mondo dovrebbero imparare a capire la loro collocazione, la loro incapacità di governarsi democraticamente, tra virgolette, il fatto che la società occidentale è più evoluta, che la democraticità appartiene a noi, che loro devono imparare, salvo poi noi occidentali chiaramente guardare alla loro cultura con comprensione e pazienza. No? Cioè c'è questo atteggiamento paternalistico nei confronti delle altre culture. Quindi così è cassata ogni lettura della società divisa in classi, ogni ribellione ad un ordine imposto e poi eternalizzato, cioè secondo il paradigma che la storia è finita. E tutto quello che è ribellione a questo ordine, appunto, è incapacità di comprensione oppure deviazione delinquenziale. Tanto è vero che anche addirittura i quartieri periferici e i poveri sono trattati come una questione emergenziale e delinquenziale. Ne deriva una cosa importantissima poi direttamente, che la responsabilità dei mali non è sociale, bensì personale. Quindi ne discende la colpevolizzazione e la necessità dell'autopromozione, di cominciare a riflettere su se stessi e di trovare le modalità per riuscire in questa società. Quindi l'autopromozione. Chi non è in grado di fare questo è destinato a perire, è il darwinismo sociale. E quindi questi paradigmi della convivenza civile, della democraticità del confronto, della capacità di gestione dei conflitti, abbiamo detto che invadono ogni aspetto del nostro vivere quotidiano e sono messi in atto attraverso dei meccanismi particolari. Infatti adesso lascio la parola a Giulia, che ci parlerà nello specifico di un aspetto che, per esempio, invade il mondo del lavoro e comunque anche poi il nostro essere oppresse, come nello specifico come donne. Ciao a tutte. E riguardo alle lezioni di convivenza civile che ci fanno, io penso innanzitutto che competenze come quelle di una buona comunicazione e di capacità di ascolto siano molto utili nella costruzione di buone relazioni in molti lati della nostra vita privata e soprattutto in quella sociale. Spesso, infatti, soprattutto negli ambienti che frequentiamo di compagni e compagne, ci troviamo a confrontarci con queste incapacità. Pensiamo per esempio alle assemblee, a molti collettivi, dove quasi sempre prevale l'intenzione di esprimere la propria posizione e spesso anche di affermare il proprio ego, e prevale sulla disponibilità all'ascolto e al confronto. In tutti gli ambiti della nostra vita comunque siamo esposti continuamente a conflitti e spesso non può non risultare una buona idea lanciarsi come kamikaze in litigi più o meno violenti per strada, o in altri ambienti, e spesso e volentieri potrebbe essere una buona idea effettivamente fermarsi e riflettere e ascoltare per poter individuare punti di incontro con le persone con le quali ci stiamo scontrando. Detto questo, io penso che stiamo assistendo da anni a una campagna tartassante che ci invita a imparare a gestire conflitti in maniera non violenta, a essere assertive, a imparare la PNL. La PNL è la sigla di programmazione neurolinguistica e si tratta addirittura di una riprogrammazione totale del modo di pensare, del modo di parlare, che dovrebbe in teoria aiutare a vivere la propria vita in maniera più felice, e questo passa tramite tante tecniche. È un sistema molto in voga al momento di life coaching, e addirittura con la PNL si passa ad emulare le caratteristiche con le quali parlano determinate persone di successo per riuscire a essere anche noi di successo. Ecco, questo per spiegare un attimo cos'era la PNL, che adesso nei luoghi di lavoro, ma anche insomma nelle librerie, è molto presente. Nei luoghi di lavoro, assolutamente è evidente, quando ci fanno questi corsi, il fine dei padroni, che mascherano il tutto come tecniche per aumentare il nostro benessere, per riuscire a vivere meglio, ma in realtà il loro vero obiettivo è quello di tentare di manipolarci e di portarci a rigettare completamente i conflitti. Ci dicono che la comunicazione assertiva ci aiuta ad avere il consenso altrui, che la violenza genera violenza, che dobbiamo imparare a vivere nel conflitto per ponderare bene le posizioni di tutti, a non agire d'impulso, che per esempio con la PNL possiamo riprogrammarci. Penso che sia proprio questo il punto, il fatto di eliminare dal nostro immaginario l'utilità del conflitto, della lotta di classe. Vogliono proprio riprogrammare una società nella quale chi ha sfruttato non reagisce e non pretende, ma invece si mette in posizione di ascolto, di attesa, e pensa magari, ecco, al fluire della propria energia. Come donne da sempre siamo piuttosto abituate a un'educazione che ci impone di essere riflessive, pacate e gentili nelle reazioni. Ci insegnano a non gridare, che dobbiamo accettare il nostro ruolo che è calato dall'alto. Le donne sono presentate come coloro che risolvono i conflitti, che mettono tutte d'accordo, che sanno fare la pace, non picchiano nessuno, non reagiscono mai violentemente. E allora, perché non femminilizzare anche gli uomini? In più, queste tecniche, sono tutte rivolte all'affermazione delle individualità. Le persone quindi sono portate a guardare dentro se stesse e al proprio bisogno di affermazione e felicità, perdendo totalmente di vista la complessità della situazione generale, il benessere collettivo e la lotta per il bene della comunità. Un altro modo che la società del capitale mette in campo per eliminare i conflitti è quello di assumere e far proprie le lotte in corso. Togliendole però, mutilandole però del significato più profondo e più politico. Ad esempio, gli omosessuali lottano contro la loro discriminazione? Perfetto, allora abbiamo nuovi consumatori per nuove fette di mercato in espansione. E le lotte lottano contro il patriarcato? Allora portiamole in Parlamento, diamogli un po' di assistenza, ci sediamo al tavolo con loro e loro si faranno portatrici dei nostri valori. Gli insegnanti chiedono una scuola diversa, più vicina ai bisogni dei bambini? E allora ecco un nascere costante dappertutto di scuole giardino, agriniti, bambini contadini. Insomma, l'importante è non intaccare il messaggio fondante della scuola, che è quello di saper stare al proprio posto, definito dall'alto, poi che sia in classe o che sia in un giardino, ai padroni cambia veramente poco, anzi ci fanno pure più contenti. Ecco, questi che mi sono venuti in mente sono solo alcuni esempi, ma il meccanismo è veramente esteso a qualsiasi istanza che venga dal basso. L'obiettivo è quello di farci tollerare le ingiustizie, di renderci docili esecutrici dei nostri compiti, della nostra schiavitù lavorativa, allontanare la consapevolezza che reagire a tutto questo sia quanto di più naturale che esiste nell'essere umano. E cercano proprio di rieducarci profondamente nel nostro essere e vogliono snaturare il nostro bisogno di vita, di libertà e di ribellione a tutto questo. E queste sono, secondo me, riflessioni da tenere davvero presenti quando ci confrontiamo con questi tipi di corsi, di approcci ai conflitti. E tanto per farvi capire che cosa intenda questa società per convivenza civile e democraticità del confronto, ci ha colpito un esperimento promozionale pubblicitario che ha fatto la Heineken. No? La Heineken è una ditta di birra. Allora, cosa ha fatto? Ha fatto un esperimento in un video. Come parlare a chi ha un'idea opposta alla tua? Metti in una stessa stanza due estranei, per esempio una femminista e un esponente della nuova destra, oppure un transgender e una persona che non concepisce i transgender, un ambientalista e uno che pensa che il riscaldamento globale sia una grossa bufala. Troveranno la via del dialogo? E questo esperimento, che è piaciuto tanto in rete, è diventato addirittura virale nel mondo anglosassone, no? A ogni coppia di opposti vengono dati alcuni mobili da assemblare, delle istruzioni, un questionario, e alla fine viene mostrato loro un video in cui il compagno o la compagna, insomma, di questo esperimento esprime la propria opinione sul tema che li vede su posizioni opposte. E viene data loro una scelta: fermarsi, bere una birra insieme e confrontarsi o andare via. Allora, Tutte le coppie decidono di fermarsi a dialogare, ma questo diciamo che non ha nessun senso, nel senso che è un esperimento fatto a scopo pubblicitario, quindi non ha nessuna valenza, chiamiamola, di credibilità. Però è il tipo di impostazione che dovrebbe farci tremare i polsi. Praticamente è il messaggio politico che ne viene fuori, cioè qui non ci sono più differenze di classe, non c'è più oppresso oppressore, non c'è più aggredito aggressore, non c'ha, il conflitto politico non ha più nessun significato, è questa famosa storia, ognuno ha le sue idee e nella democraticità del confronto ogni idea è accettabile e deve essere accettata con serenità. A questo proposito, poi, e oltretutto, addirittura un'ideologia di fondo di questo tipo diventa marketing, no? Ma perché è diventato marketing anche il concetto di rivoluzione nel neoliberismo che viene usato a ogni piè sospinto per pubblicizzare una banca, una macchina, una nuova crema, una lametta da barba, qualsiasi cosa è rivoluzione. Perché ti deve dare l'idea che quella cosa lì cioè ti deve incanalare il tuo desiderio di trasgressione e la tua insofferenza a questo tipo di sistema. Allora dice: ma qui siamo nel mondo del marketing, della pubblicità, e loro usano qualsiasi tipo di strumento pur di vendere, anche se poi è lo specchio della società. Però c'è una cosa ancora più grave che vi fa capire quanto questo tipo di impostazione attraversi il comune sentire, cioè si tenda e voglia attraversare il comune sentire, che è per esempio un'altra cosa che ci è capitata sotto mano e che riguarda un centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti. Questo centro è addirittura accreditato dal MIUR e fa i corsi di aggiornamento per gli insegnanti e passa anche nelle reti femminili che si dicono così femministe e socialdemocratiche. Allora, questo centro ha fatto anche dei seminari, uno ultimamente, dalla carenza alla competenza conflittuale, no? Allora, questo centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, che appunto è accreditato presso il MIUR per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, ai sensi della direttiva 170/2016, quindi è ufficiale, dice questo: manifesto del buon conflitto, ascoltare per credere. 1. Non confondere il conflitto con la violenza. Il conflitto lo usi per affrontare l'ostacolo, la violenza per eliminare chi ti ostacola. Chiaramente l'ostacolo, chi ti ostacola, non ha nessun connotato di classe, di genere, è assolutamente neutro, è qualcosa, è così, qualcosa che non ti va bene o che non risponde a quello che vuoi tu. Poi, 2. Utilizza il conflitto come antidoto alla violenza. Quindi la violenza, il paradigma della violenza e quello che è la violenza è completamente cassato, cioè la violenza è il male assoluto, appartiene a chi non sa gestire i rapporti con gli altri, appartiene a chi si pone in maniera sbagliata rispetto alla società, rispetto al prossimo, rispetto alla gente. I connotati politici sono assolutamente azzerati e quindi, detto questo, data questa connotazione della violenza, il conflitto bisogna saperlo gestire. Se ha imparato, dice il manifesto, a saper gestire i momenti di crisi e di contrarietà, non avrai motivo di ricorrere alla violenza né contro te stesso né contro gli altri. Quindi non ci sono la violenza dello Stato e la violenza delle istituzioni, è qualcosa che non esiste, che viene bellamente bypassato e che quindi addosso a te non si rovescia e non si capisce da che cosa dovrebbe dipendere la tua insofferenza, se non, come in effetti viene fatto capire, dalla tua incapacità di rapportarti. Dopodiché, quindi è solo colpa tua, no? Cioè, se non sai gestire il rapporto con gli altri e ricorri alla violenza contro gli altri o contro te stesso, è soltanto colpa tua. 3. Non cercare il colpevole è la forma più arcaica e primitiva di affrontare il conflitto, che rischia di portarti unicamente al rancore e alla vergogna. Quindi non ci sono colpevoli, non c'è appunto aggredito aggressore, non c'è sfruttato, sfruttato, sfruttatore e sfruttatore, non ci sono subalterni, dominanti e dominati, no? Quindi non cercare il colpevole, perché devi cercare il colpevole delle brutture di questa società? No, no, no, no, tu devi imparare soltanto a rapportarti in maniera serena. Impara a sostare nel conflitto, perché poi ci dimentichiamo sempre di una cosa, che il conflitto interpersonale e il conflitto nel privato è sempre lo specchio del conflitto sociale. Il personale e politico è una cosa vecchissima ormai per il pensiero femminista, no? Noi abbiamo fatto come coordinamento anni fa un incontro sulla violenza contro le donne, sulla violenza maschile contro le donne, abbiamo detto il personale politico, il sociale e il privato, perché poi quello che è il privato, non è altro che il frutto dei rapporti di forza del sociale, quindi l'una cosa rimanda all'altra. Quindi impara a sostare nel conflitto, è il punto 4, è meglio che cercare subito la soluzione. Il conflitto nasconde tante informazioni che puoi esplorare, il conflitto provoca tante emozioni che puoi saper riconoscere e rispettare. Quindi, anche se tu sei infelice, tartassato, disperato, eccetera, devi imparare a sostare in questa situazione. Perché anche questo è utile nella vita. Anche le pene sono portatrici di cose positive. Comunque il punto 3 era non cercare il colpevole, quindi lavora soltanto su di te. 5. Impara a comunicare e ascoltare. Anche in presenza di contrasti, leggi il conflitto non come una minaccia, ma come occasione di cambiamento. Così puoi sviluppare la tua competenza conflittuale. Sono problemi personali, cioè se l'incapacità è tua. 6. Prenditi cura dei tuoi tasti dolenti, saranno tuoi alleati. Nei conflitti avrai capito che emergono le tue emozioni e i tuoi dolori infantili. Prenditene cura, così sviluppi la necessaria capacità di capire te stesso e gli altri. Allora, chiaramente ognuno di noi ha dei traumi infantili, un percorso sociale, una collocazione di classe, però non è questo. Sono i tuoi traumi che tu ti porti dietro, che poi vengano appunto dalla collocazione di classe, da problemi di aggredito e aggressione, da problemi di oppressione, di violenza su di te, soprattutto istituzionale, questo non ha nessuna importanza. Non si sa bene da dove viene tutta questa, tutti i tuoi tasti dolenti da dove vengono, se non da una tua, non lo so, vogliamo chiamarla costituzione biologica, non ho idea secondo loro da dove diavolo, è il tuo carattere. Poi, 7. Usa la domanda maieutica. Rappresenta una forma molto efficace di comunicazione, cioè Bisogna creare interesse reciproco, bisogna capire e cogliere i punti di vista altrui. Mi raccomando, dialogate con una fascista o con un fascista, cercate di capire perché è fascista o non è fascista, dialogate con un socialdemocratico che ha fatto il Jobs Act, dialogate sul perché l'ha fatto, rendetevi conto anche delle sue problematiche, magari è stato picchiato da bambino e per questo ha fatto il Jobs Act. Dopodiché, 8, educa bene. Dove c'è violenza c'è anche cattiva educazione. Educare bene è alla base della vita, come il cibo, riguarda tutti, anche te. Impegnati per avere scuole di qualità e perché i genitori non siano lasciati soli nella crescita dei figli. Allora, educa bene a che cosa? Perché l'educazione, a parte il fatto che come femministe noi per tanti anni abbiamo combattuto il concetto di educazione, ma era informazione, consapevolezza, conoscenza. L'educazione presuppone tutta una scala di valori, no? Quindi educa bene a cosa? Dove c'è violenza, c'è cattiva educazione. Quindi se tu sei violento non è perché la società ti ha fatto fettine sottili, no, è perché non sei stato educato bene, cioè la scuola non ti ha abbastanza impostato, non ti ha fatto capire che devi stare al tuo posto e devi capire perché stai a quel posto, no? Educare bene è la base della vita come il cibo e sono convinta questo che per il sistema educare bene sia la base della vita come il cibo, perché se riesci a inquadrarti fin da piccolo è chiaro che più sei inquadrato e più sei uno che mette in atto l'asservimento volontario. Quindi impegnati per avere scuole di qualità, no? Per avere scuole di qualità, quindi che significa la scuola di qualità? La scuola meritocratica, la scuola a punti, la scuola, non lo so, dei quiz, la scuola, che cosa vuol dire una scuola di qualità? E perché i genitori non siano lasciati soli nella crescita dei figli? Certo, potrebbero combinare guai, mentre con una debita corte di addetti ai lavori, psicologhe, psicologi, psichiatri, sessuologi, assistenti sociali, potrebbero evitare di prendere dei percorsi che possono danneggiare loro stessi e i figli, magari sono percorsi di ribellione. Aiuta i bambini a litigare bene. Nei litigi infantili evita di cercare il colpevole o imporre la soluzione, sostieni i bambini a comunicare e a darsi le reciproche versioni dei fatti. In questo modo faciliti la loro ricerca di accordi possibili. Per fortuna i bambini sono molto diretti, sono molto intuitivi e se uno gli fa un dispetto riceve uno schiaffone, un bello spintone e finisce per terra. Il problema è che invece i bambini vengono educati a gestire in maniera equilibrata, fra virgolette, perché sappiamo bene che cosa vuol dire, la loro istintiva sete di giustizia. E quindi vengono fin da piccoli educati a due cose che sono molto pericolosissime. L'ipocrisia. E quindi a non essere diretti, mentre i bambini sarebbero diretti, e la prevaricazione, che è tutto il contrario, cioè questo tipo, tutto questo manifesto porta poi a due cose, o alla prevaricazione, o a tre cose, o alla prevaricazione, o all'ipocrisia, o a quello che poi succede da tanto tempo nella società americana. Che quando uno è licenziato, quando uno ha subito qualche sopruso, eccetera, sia nella scuola, sul lavoro o compagnia bella, prende un mitra, va in ufficio e fa fuori tutti. Perché se non avendo una coscienza politica e non riuscendo a, cioè non riuscendo, l'hanno impostato proprio a dimenticare le ragioni per cui succedono le cose in questa società, poi la reazione è di questo tipo. Siamo di nuovo qui, lasciamo la parola a Noemi e poi arriveremo alle conclusioni. Pensando alla puntata sulla convivenza civile, cercavo appunto degli spunti un po' più attuali per riuscire a costruire il discorso e come premessa all'argomento mi sembrava molto di ispirazione leggere alcune righe del nuovo libro di Rosella Simone, Donne oltre le armi. Allora, c'era ancora una mala che aveva un'idea chiara e semplice di come si sta in carcere, i detenuti da una parte, gli sbirri dall'altra. Mi piaceva quell'essere irriducibilmente contro. Perché questa mi ha dato ispirazione a questa puntata? Intanto perché in questa narrazione c'è una convivenza abbastanza chiara e trasparente tra appunto chi sono i detenuti e chi sono gli sbirri. Non c'è un'accettazione del cattivo in quanto appunto chi commette reato. E questo già no, fa una netta differenza su quella che è intesa come convivenza democratica, no? E poi la cosa che mi ha colpito è questa frase: mi piaceva quell'essere irriducibilmente contro. Questo essere contro. No, normalmente viene legato molto all'essere. All'essere adolescente, all'essere giovani, no? A mettersi contro i genitori, a lottare contro le ingiustizie, come se fosse una cosa un po' bonaria. La ritengo una cosa che almeno nella mia generazione ci si è sentiti parecchio dire, sì, poi quando crescerete vi renderete conto che insomma non è che si può sempre stare lì a stare contro le cose. Perché? Perché siamo una generazione che appunto è stata cresciuta da questo concetto di essere democratici, di l'idea di essere cittadino, non so, anche quello di creare un'idea appunto di non buon cittadino, proprio persona buona, disponibile, disposta a fare il sacrificio per qualcosa di alto, ma che non è un'ideologia, è semplicemente il buon funzionamento di quelle che poi sono le norme stabilite da chi detiene il potere. Quindi appunto una convivenza che non ha gli stessi nemici che si riuscivano a mettere a fuoco prima. Probabilmente perché appunto abbiamo accettato questa divisione fatta secondo la normativa, quando abbiamo permesso appunto di insabbiare la discriminante di classe con l'uso della parola povertà, quando abbiamo perso, ammettendo che aveva ragione il nostro nemico perché rendeva tutto illegale e quindi noi abbiamo deciso di non commettere più niente che fosse illegale per evitare appunto di trovarci in una situazione scomoda. Questo ha fatto sì appunto, questo meccanismo è importante perché ha fatto sì che fossimo direttamente noi a limitarci. La legalità di oggi non è la legalità in quanto, non so, faccio un esempio banale, mi devo mettere la cintura perché è per la mia sicurezza, ok, viene imposto questo regolamento, ci sono delle conseguenze se io vengo fermata e non rispetto questa regola, però poi a un certo punto è scattata una molla per cui effettivamente non è più il nemico a dovermi controllare sulla cintura. Mi controllerà su altro ovviamente, ma sarò io a decidere che mi metto la cintura per proteggermi e quindi diventerà in realtà una mia abitudine talmente consuetudinaria da non rendermi più conto che in realtà mi è stata indotta. Ora ho preso quello della cintura semplicemente perché mi veniva più facile, però davvero effettivamente il meccanismo poi è questo, no? Quello che parte e fa sì che piano piano piccoli scatti, piccoli tasselli entrino nella nostra quotidianità come se fosse normale che comportarsi come tale, come se è sempre stato così, come se è normale agire in quel modo nel momento in cui si scopre che, non so, se butto una cosa per terra poi il mondo muore. Forse ci sono però delle analisi politiche da fare prima di continuare a vivere in un mondo che giudica e controlla ogni singolo movimento individuale e collettivo, utilizzando molto spesso morale, etica e non certo il buon senso, né tantomeno l'obiettivo finale, che può essere, che ne so, la sicurezza personale in macchina, quanto più la pulizia dell'ambiente. Quindi abbiamo voluto credere che anche noi, che sappiamo che siamo sfruttate, siamo violentate sotto mille punti di vista, psicologico, lavorativo, veniamo umiliate, ovviamente siamo le prime invece, no, a rappresentare per la società questo comportamento quasi super partes, no? Corretto, giusto, sopra ogni linea di comportamento, perché esiste un'idea di giustizia che effettivamente non, in realtà non esiste e non si riporta a nessuna idea di a nessun concetto in realtà di classe. È un modo per essere schiacciati sempre e comunque da quello che è il controllo del nemico. E questo comportamento idoneo, che viene definito idoneo, appunto diventa l'unico comportamento, l'unico modo di poter fare le cose. Quindi nell'accettare di buon grado questo controllo, perché di controllo che si parla, questo controllo è stato visto quasi, appunto, come dicevo prima nell'esempio, quasi come fosse un padre, una madre benevola, no? Che lo fa per il nostro bene, lo fa per proteggerci, lo fa perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci stia ad aiutare. Ma intanto non dovevamo uccidere il padre e la madre? E come mai in realtà poi l'autorità, quella che ci opprime, che in realtà era stata identificata come il nemico, a un certo punto è diventato qualcosa che ci dobbiamo portare a braccetto? Il politicamente corretto sicuramente è stato uno degli strumenti più però ipocriti che siamo riusciti poi, no, che ci sono riusciti a far rientrare, no, in questo loop in cui appunto l'autorità ci controlla, però diventa qualcosa per cui è giusto seguirla. E è difficile scrostarsi, no, dall'uso del politicamente corretto. Il politicamente corretto quindi è stato uno strumento ipocrita che ha permesso che rientrasse appunto dalla finestra il concetto appunto dell'autorità benevola che ci protegge. È difficile adesso scrostarlo per evitare appunto di rischiare di sembrare razzisti, sessisti o fascisti, nel linguaggio soprattutto, no? O anche in alcuni gesti, ma per non essere razzista, sessista o fascista bisognerebbe non esserlo in generale nella propria vita, non esserlo collettivamente, non avere delle istituzioni che rendono tutto razzista, fascista e sessista. Non basta insomma una Boldrini alla Camera o insomma la quota rosa o la quota gialla, blu, verde, ovunque, per sentirsi meno razzisti, sessisti o fascisti. E anche accettando appunto i nostri retaggi politici introiettati dalla società non come tabù, ma come punto di partenza per essere decostruiti. Faccio un esempio, no? Come quando si parla, sono le donne che cucinano, le mamme sono sempre le mamme, questa è una qualità femminile, piuttosto che appunto la maggior parte delle, dell'umorismo che viene utilizzato in giro è prettamente sessista o razzista, molto, la maggior parte delle battute lo sono, e molto spesso si è costretti a dover ridere a questo tipo di linguaggio, e forse effettivamente non è necessario sempre anche imporsi, oppure anche l'uso di alcune parole, no? Cioè, come si fa a chiamare una persona di colore, negra, nero, boh, non lo so, perché non vorrei essere razzista. Tutto ciò può essere decostruito. Bisogna semplicemente avere una lettura, ovviamente, di classe, di genere e anche, ovviamente, un approccio politico alla propria esistenza. Questo approccio politico, questa analisi politica è quella che è stata completamente annullata, cioè tutto questo è stato trasformato in un comportamento accettabile e democratico. Fuori da quello non c'è nulla. È un po' il concetto dell'essere apolitico, no? Per cui non importa che colore sei politicamente, l'importante è che tu ti comporti così. E in realtà è decisamente una cosa molto, molto, molto pericolosa, e questo l'abbiamo visto già più volte. Una notizia che ci arriva appunto dritta dalla Spagna è quella sul manspreading. A Madrid è proibito agli uomini sedersi a gambe aperte sui mezzi pubblici, correlato da parte appunto proprio da l'MET, che è l'equivalente del nostro ATAC, tra appunto le varie vignette, no? Quelle in cui ti devi attenta al borseggiatore, timbra il biglietto. Beh, loro hanno il wifi, noi no, però insomma qua ci si siedono solo queste categorie. Adesso c'è anche quella del men's spreading. Ma perché nasce questa cosa? Praticamente la campagna è stata portata avanti da un gruppo di attiviste che si chiamano Mujeres en Lucha y Madres Estresadas, donne in lotta e madri stressate, da tempo che promotrici della battaglia contro l'invasione machista dello spazio, detto manspreading, ovviamente sostenuto anche dalle liste di Podemos. Da qui ovviamente poi ci sono state varie polemiche di cui vi dico. Questo atteggiamento è quello di mettersi a gambe aperte, ombre de spatarrado, per dirlo alla spagnola, che appunto in realtà è vero, nasconde ovviamente un atteggiamento dovuto e indotto dalla società e che infierisce sul genere, proprio perché noi da piccole veniamo abituate no, a sederci composte, a stare con le gambe chiuse soprattutto. E gli uomini invece in teoria nessuno gli dice, cioè a parte quando sono piccoli, se state seduti composti, per il resto poi si siedono sempre abbastanza stravaccati. Quindi è sicuramente vero che in questo atteggiamento c'è anche una vaga forma di molestia, perché effettivamente non tutte riescono poi, no, a in qualche modo a prendersi il loro spazio, questo lo vediamo, però quello che è stato fatto da questo gruppo Mujeres Libres e le Madri Stressate è stato in realtà fare una richiesta, cioè fare intanto un appello su change.org, poi twittare con appunto l'hashtag manspreading e quant'altro. E quindi quello che mi viene intanto da discutere è appunto, è vero che hanno fatto notare ritornando alle polemiche di cui parlavo prima, che appunto in realtà il regolamento della metro già prevede di non sedersi, no, stravaccati. Però non è tanto il fatto che esista un termine per definire che i maschi, tendenzialmente un atteggiamento macista, si siedono a gambe larghe, e infatti siamo corredati, poi si è andato a cercare online, di 1000 foto di uomini di qualsiasi risma seduti a gambe larghe e donne strette strette sulle seggioline. Ma il punto è: com'è possibile che una battaglia che avrebbe anche senso, perché in realtà si riporta, si ricollega a un importante modo di vivere anche la sessualità, o comunque come viene imposta la sessualità, e quindi qualcosa che andrebbe decostruito, da cui dovremmo anche difenderci, diventa in realtà un movimento social. Ora, non è questo il momento né l'argomento né tanto l'obiettivo del mio intervento, quello di appunto banalizzare le lotte sui social. Sono sicuramente un'ottima cassa di risonanza, no? Però hanno bisogno di contenuti. Nel momento in cui però l'unica battaglia che riesco a mettere in campo è quella dell'hashtag, è quella del Twitter, ed è quella appunto della delega al controllo da parte delle istituzioni, che gli uomini non si seggano in questa maniera con un simbolo femminista sopra, a me sembra semplicemente che in sostanza la nostra generazione, quella dei trentenni, quarantenni, ha completamente delegato a un'istituzione, che sia l'ATAC, che sia l'MT, che sia, non so, pure la scuola o quant'altro, ha completamente delegato il conflitto. Quindi il conflitto non è più conflitto, perché se è delegato non può essere tale, e in questo modo ci siamo decisamente infantilizzati da noi. Però ovvio, poi viene fuori una campagna bellissima tutta in viola e lilla, in cui ovviamente alcune si ritrovano, perché il disagio esiste, prendendo i mezzi di trasporto, insomma, purtroppo non è solo il manspreading quello di cui purtroppo dobbiamo lamentarci, ma è tutta una serie di problemi che purtroppo riguardano come è costruita la città, come è intesa la città, per chi è la città. Non è proprio per noi, non ci sono cittadini, ma ci sono persone di serie A, persone di serie B, ci sono sfruttati e chi sfrutta. E questa è la differenza. Non puoi chiedere all'ATAC di andare a dire a quello che ti sta seduto accanto di stare a gambe chiuse, perché in realtà si tratterebbe di essere tu che a livello collettivo riesci ad auto-organizzarti e a far sì che sei il primo che si siede a gambe larghe. Ma voglio vedere che cosa succede sull'autobus. Il problema è che non è così. Il problema è che è rilasciata la singola individualità, e collettivamente non si fa nulla, se non queste campagne, no, che rimangono comunque nell'ambito civile, che piacciono tanto a tutti quanti perché sono ben curate e fanno tanta scena, tant'è che ci sono articoli su tutti i quotidiani online italiani, nonostante sia una notizia spagnola. Quindi appunto è stato curato è stato curato molto bene l'impatto mediatico di questa notizia, no? Però a me sembra tanto che appunto rientra nella convivenza civile, cioè se ti siedi bene a posto allora mi vai bene, però te lo dico io con calma, con un cartellino. Non c'è nemmeno si è completamente perso il mettere in campo il conflitto contro qualcosa che ti opprime. Si delega e basta, si segue, no, l'iter prestabilito, come se ci fosse un prestampato per poter dire che non si è d'accordo su come ci si siede, perché poi ovviamente se le battaglie diventano queste, ovviamente le risposte non possono essere tali, che appunto l'EMT ha già risposto che comunque richiedeva agli utenti di sedersi in modo corretto, Quell'altro, ah vabbè, mo perché postiamo tutte foto di donne che si sono sedute stravaccate sui mezzi di trasporto, e lì diventa, capito, una battaglia inutile tra maschio e femmina intesi dal punto di vista biologico, e ritorniamo al femminismo della differenza, ritorniamo al gioco tra chi naviga sul politicamente corretto e chi in realtà non gliene frega niente del politicamente corretto, non trovando una controparte a cui legarsi se non l'autorità e il politicamente corretto. A quel punto comincia invece, no, a dare contro a chi viene ritenuto di sinistra perché è politicamente corretto. Scusate se l'ho ripetuto tante volte, ma mi sembra veramente un concetto agghiacciante ormai. Sicuramente in alcuni casi si sta perdendo, ma neanche troppo, considerato che appunto queste sono cose che succedono in questi giorni. Che cosa mi viene da dire? Mi viene da dire che in realtà bisognerebbe ricominciare a reagire, ad autodifendersi, intesa come pratica collettiva di risposta appunto all'oppressore, perché ribellarsi non può essere un'azione che si svolge all'interno dei margini prestabiliti, ma è proprio sfondare questi margini e allargarsi e prendersi spazio, riprendersi pezzi di vita che ci vengono tolti perché vengono controllati. E quindi forse dovremmo ricominciare a rosicchiare un po' di più i limiti che ci vengono imposti. Rompere con tutto questo significa rifiutare le forme di relazione sociale economica che riproducono incessantemente la società in cui viene imprigionata la nostra esistenza. La socialdemocrazia riformista è stata ed è il principale ostacolo alla rottura di questi rapporti e di queste relazioni. Finché saremo subalterni alla logica della legalità, della norma, del politicamente corretto, del realistico, non si riuscirà a intravedere la fine della società patriarcale. Ogni qualvolta invece saremo in grado di deporre questi assunti, quella fine sarà più prossima. Qualsiasi osservazione, qualsiasi comunicazione ce la potete inviare su coordinamenta@autistiche.org oppure scrivercela sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org. Ciao! Per Carnevale, carnevale, sui ciao! pantaloni. Ciao a Ciao! tutte!